Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Oggi è il 4 dicembre, l'Emilia che riparte, i nodi irrisolti, la mancata ricostruzione, il terremoto che ha colpito l'Emilia il 20 e il 29 maggio del 2012, 27 morti, 45.000 sfollati, 12 miliardi di euro di danni stimati, 1.500 fabbriche inagibili, 9.000 magazzini fuori uso, 1.500 opere d'arte tra chiese e monumenti danneggiati, 15 milioni di euro raccolti con l'SMS solidale. Insomma, da ieri noi abbiamo pensato di ritornare in Emilia per raccontare una terra che vuole e che deve rialzarsi, fatti, progetti, risultati raggiunti, ma anche, e di questo parliamo oggi, delle promesse non mantenute. Ogni giorno sentirete, dopo il GR delle 7 e delle 19, un viaggio nei comuni più colpiti dal sisma per scoprire i nodi risolti e fare il punto sulla ricostruzione. E oggi, a 6 mesi dal sisma, Italia in controluce indaga sui principali nodi irrisolti. Si parte dunque dalla mancata ricostruzione. Che cosa non ha funzionato secondo voi nella ricostruzione dell'Emilia colpita dal terremoto? Di chi sono le responsabilità? Cominciamo a fare i fatti e i nomi di queste mancate responsabilità. Avete la possibilità di inviare gli SMS 349-238-6666, naturalmente soprattutto rivolte alle persone che ci ascoltano dall'Emilia, ma anche a tutti gli altri ascoltatori che forse un'idea si sono fatti di questa mancata ricostruzione. Qui con me c'è Laura Bettini, che saluto, che è reduce da un viaggio di poche ore, ma che ha fatto praticamente l'intero giro della provincia di Modena. Dove sei andata? È iniziato da Carpi per poi proseguire verso Novi di Modena, poi ho passato il confine della Lombardia, Moglia e poi via via Concordia, Mirandola. Sono passata attraverso tutte le aree più danneggiate da questo terremoto. E che cosa posso dirvi? Che cosa sta succedendo 6 mesi dopo? Succede che la ripresa della vita quotidiana è difficile, perché gli ostacoli sono grandi, sono dovuti ovviamente al terremoto, alle sue conseguenze, alla perdita della casa, del lavoro, dei punti di riferimento che sono la scuola, le chiese, i centri sportivi, le piazze, ma è anche dovuto alla crisi economica di cui tutti noi risentiamo, quella mondiale, quella italiana, e dalla lentezza specifica invece questa italiana di ogni procedura che stronca l'iniziativa e qualsiasi anche ottimismo, anche quello naturale, diciamo, emiliano. Sul campo molto si è fatto, l'abbiamo visto, ma adesso devono arrivare anche i contributi, quelli veri, i soldi, quelli pesanti che devono arrivare dal governo e anche dall'Unione Europea, che finalmente sbloccherà quei milioni che aveva tenuto fermi per tutti questi 6 mesi. I comuni hanno speso le loro forze, hanno speso tutto il denaro che avevano, lo stesso hanno fatto le province, lo stanno facendo le regioni, ma manca molto alla normalità. Che questo sia un paese difficile è chiaro anche da questa notizia che è uscita ieri sera, ve la leggo perché è incredibile. Dopo l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Monti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà, gli esponenti politici di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, insieme alle forze economiche e sociali, si è deciso che parte oggi, quindi il 4 dicembre, il tavolo tecnico di lavoro per definire il percorso che affronterà tutti i problemi creati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto. Questo accade la notte del 3 di dicembre, il 4 quindi si apre questo percorso e sembra impossibile, ecco, essere arrivati a questo punto. Comunque contento è stato di questo incontro Vasco Errani, che è il presidente della regione Emilia Romagna ma è anche il commissario per il terremoto. Dice: sono stati fatti passi avanti per affrontare i problemi non risolti nella direzione dell'equità e della giustizia, perché qui c'è un altro tema fondamentale, quello dell'equità, perché come abbiamo detto recentemente in una puntata di 9 in punto, lo Stato, la normalità giudica sia tornata almeno da un punto di vista fiscale in queste regioni, poiché a cittadini, imprese e professionisti si chiede di pagare entro il prossimo 16 dicembre quanto sospeso durante il periodo di moratoria fiscale e contributiva, quindi tra il 20 maggio e il 30 novembre. Sentiamo cosa ha detto recentemente Errani, quali sono le sue richieste, che poi nelle prossime ore speriamo chiarirà se sono state accolte o no dal governo. Senza la ripresa di questo territorio non è pensabile una crescita del paese, per questo stiamo facendo un'ulteriore azione per perché vi sia il riconoscimento per i lavoratori, anche i dipendenti, anche del rinvio dei contributi per chi ha avuto danni nelle abitazioni e per le imprese che hanno avuto danni diretti economici con una riduzione di fatturato sopra il 30% per avere il rinvio. Questo non è un atteggiamento assistenziale, è riconoscere il giusto per consentire che la ripresa sia rapida, perché l'Italia ha bisogno, e vorrei dire anche l'Europa ha bisogno che questo territorio riprenda rapidamente. Rani ha detto anche che arriveranno 6 miliardi di euro di contributi entro il 10 di gennaio. Sentiamo il presidente dell'ANCI, dei comuni italiani, Graziano Del Rio, nell'intervista realizzata da Dario Ricci per la trasmissione A Bordo Campo di domenica prossima. Un'occasione per parlare anche di questo. Beh, credo che il tema vero ormai non sia tanto il problema dei fondi, perché sono stati ottenuti con un'azione molto, molto precisa e molto puntuale, sia dal punto di vista, sia con gli accordi con appunto le banche attraverso appunto la mediazione della Cassa Depositi e Prestiti, sia con i fondi direttamente erogati dal governo. Questo Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'ANCI. Siamo in diretta col direttore della Gazzetta di Modena, Enrico Grazioli. Buongiorno Grazioli. Buongiorno. Moltissimi sono gli sms che sono arrivati al 349-238-6666. Abbiamo chiesto cosa non ha funzionato nella ricostruzione dell'Emilia colpita dal terremoto e di chi sono le responsabilità. Da Marco, che dice: che paese è quello che non mantiene gli impegni, si salvano le banche ma non cittadini. Fede da Modena dice che è vero che la speranza è l'ultima a morire, ma abbiamo creduto che davvero lo Stato ci avrebbe trattato diversamente da altre zone italiane terribilmente colpite da altri terremoti, una cosa già vista. Dite che lo Stato da questo mese riprende le tasse e ti ha bloccato per il terremoto, migliaia di famiglie saranno senza soldi. Grazie a Monti. E Roberto dice anche grazie al Partito Democratico, non si capisce perché, forse perché è uno dei partiti che appoggia Monti. E Rani, quanta demagogia, quante parole vuote, quanta aria fritta, scrive uno che normalmente manda dai 4.000 ai 5.000 sms al minuto. Alla buon'ora il terremoto sarebbe dovuta essere un'opportunità per rimettere in moto l'economia. A noi richiedono l'immediato pagamento dei tributi mentre si continua ad inviare milioni di euro per la ricostruzione dell'Irpinia e dei Belice. Due pesi e due misure, dice Mauro da Finale Emilia. Allora Grazioli, di chi sono le responsabilità? Cominciamo a fare dei nomi, se ci sono. Cominciamo anche a fare un momento di chiarezza. Allora, chi ha vissuto direttamente questo terremoto nei giorni, nelle settimane, nei mesi delle scosse, e chi vede cosa è stato fatto oggi a 6 mesi di distanza non può dire che non sia stato fatto nulla e nemmeno che sia stato fatto poco. Questo deve essere chiaro, perché sennò non si capisce qual è la situazione oggettiva. È molto avanti, è abbastanza avanti la ricostruzione dell'Emilia. Sono mancate una serie di cose, questo è vero. Non ha torto il sindaco di Reggio Del Rio quando dice che i fondi, almeno sulla carta, ci sono, che un percorso è stato trovato, una serie di disponibilità sono state trovate in questo senso. Quello è vero. È vero che ci si era detti con l'autunno non devono più esserci persone nelle tendopoli, non ci sono più, non ce n'è più neanche una, anche se alcune soluzioni sono state faticose e in parte dolorose. Si era detto i ragazzi devono tornare nelle scuole in tempo per l'inizio dell'anno scolastico, i ragazzi sono nelle scuole, alcune scuole sono nuove, altre saranno provvisorie, non sappiamo bene per tutti quanto dureranno, ma è una situazione di, tra virgolette, normalità raggiunta e conquistata a fatica, lavorando soprattutto. Sono mancate altre cose. Il riferimento, ecco, abbiamo veramente fiscale, pochi secondi. No, abbiamo pochissimi secondi. La questione fiscale è quella più dolorosa, sì. Nel senso che è vero, ma lo si sa da mesi, è stata combattuta anche una battaglia seria, importante, sono state provate mille strade, ci ritroviamo davvero oggi in questa situazione in cui chi ha la casa distrutta deve comunque pagare l'IMU, deve versare l'IRPEF, l'azienda che non ha potuto fare reddito. Il tavolo tecnico a cui si faceva riferimento deve dirimere alcuna, certo, ancora alcune questioni. Grazie Enrico Grazioli, siamo veramente in chiusura, direttore della Gazzetta di Modena. 13:44, 19 secondi, ritorniamo domani come sempre 5 dicembre Conto Luce con Daniele Biacchesi con la redazione di Radio 24. Ecco, no, vi ricordo che questa puntata è soltanto la prima delle due puntate dedicate all'Emilia, e che vi ricordo come sempre che questo è partito da ieri in GR delle 7:19, questo viaggio dei comuni più colpiti dal sisma per scoprire i nodi risolti e fare il punto sulla ricostruzione, e poi il 14 dicembre con l'evento che abbiamo organizzato proprio in provincia di Modena per raccontarvi in diretta, quindi verremo, Radio 24 verrà proprio nella zona di Modena.